Radio Radicale, Quaderni Radicali e l'Asino d'Oro organizza per il 16 gennaio, a partire dalle 10.30 al Teatro Eliseo di Roma, in Via Nazionale, un incontro con Massimo Fagioli, Marco Pannella ed Emma Bonino. Un incontro che ha il titolo Il potere della non violenza, la politica per cambiare, che sarà moderato e impostato dalle domande, dagli interventi di Giuseppe Rippa, Ilaria Bonaccorsi e Matteo Fago. Noi siamo in collegamento con il direttore di Quaderni Radicali, Giuseppe Rippa, che ci dice un po' il senso di questa iniziativa in questa fase così importante e significativa anche della politica radicale, perché ci sono le regionali, c'è la Bonino. Come si colloca questo incontro, Geppi? Diciamo che questo incontro è stato programmato prima che prendesse forma alla candidatura di Emma alle elezioni regionali. È nato nella fase di preparazione del numero di Quaderni Radicali, il numero 104 del dicembre 2009, che aveva appunto il primo piano dedicato al tema del potere della non violenza e la politica per cambiare. Nell'ambito di questo numero, che tra l'altro comprende numerosi interventi, tra cui quello di Gianfranco Spadaccia, di Angelo Bandinelli, Lorenzo Stricliver, lo stesso Marco Pannella e Massimo Fagioli, Sandro Dioniso, Di Matteo, Claudia Del Vento, Antonio Trinchese, oltre con il mio editoriale, c'è appunto questa conversazione con Massimo Fagioli ed è come dire, maturato un tipo di approfondimento che riguardava proprio una sorta di connessione tra l'azione politica dei radicali, da un cinquantennio portatori del disegno non violento, su cui poi verremo a dire alcune cose, e la teoria della nascita, che appunto è uno dei contenuti del lavoro della teoria della realtà umana, che è il lavoro anche scientifico di Massimo Fagioli, il quale, come si ricorderà, gli ascoltatori di Radio Radicale lo ricordano, è venuto con le nostre assemblee anche all'ultimo congresso di radicali italiani a Chianciano. Diciamo così, la candidatura di Emma Bonino, il significato politico che ha assunto, se si vuole, uno degli ingredienti fondamentali della lotta politica radicale, quello della non violenza, è immediatamente entrato in connessione con questo appuntamento che, ricordiamolo, si terrà sabato 16 di gennaio al Teatro Eliseo, che evoca anche un po' il modello degli Amici del Mondo, cioè del filone culturale a cui la vicenda del Partito Radicale da un sessantennio fa riferimento. L'appuntamento quindi nasce dentro a questa iniziativa culturale e politica che è divenuta anche centrale nel momento in cui Emma Bonino sembra a tutti gli effetti la candidata non solo della lista Bonino-Pannella, che è il fatto politico preciso, ma potrebbe vedere appunto la adesione alla sua candidatura, alla sua nomina di Presidente della Regione Lazio da parte del Partito Democratico. Il contenuto, lo ribadisco, è proprio la filosofia politica che ha animato il lavoro dei radicali intorno alla non violenza. In particolare c'è da dire che uno dei punti concettuali fondamentali è che nella non violenza è stato identificato la compiutezza della democrazia politica, cioè quella di far sì che la civiltà del nostro tempo e la cultura della non violenza potessero essere, diciamo, i tracciati essenziali entro cui una dialettica democratica e civiltà democratica potesse prendere forma. Va ricordato infatti che il metodo non violento non è un metodo passivo, è tutt'altro, e qui poi si apre la strada ad una riflessione nel rapporto appunto anche tra non violenza e pacifismo. Perciò i radicali amano, diciamo, affermare di essere dei non violenti, ma appunto questo confronto con la realtà, con ciò che accade, il modo di lavorare degli attori sulla scena, anche il fatto che la non violenza è tutt'altro che un abbassamento dell'aggressione, soltanto la iscrizione dell'aggressione, della voglia, della domanda di libertà dentro una definizione, una nomina, un'apertura dei conflitti che appunto poi nella determinazione, nella durata e nella fermezza è dentro i caratteri del metodo, del diritto, della legalità, trova la sua forma di estrinsecazione di realizzazione. Proprio il concetto del diritto e della legge proprio sono i presupposti essenziali della cultura politica della non violenza, proprio perché, e qui poi si potrebbero aprire delle considerazioni su queste prime battute, presunte battute, perché poi vedremo il corso della campagna elettorale per le regionali quali saranno gli ingredienti che verranno messi in campo, ma da un punto, da una premessa teorica si può ben affermare che una cultura della vita, che non è anche cultura del diritto, che non aspiri a creare o modificare la legge, al massimo può produrre dei martiri, non attori della storia. Ecco, credo che noi come radicali, e il carattere di Emma Bonino, la sua storia, la storia del leader storico radicale Marco Pannella, sono, che sono appunto anche i punti di definizione della lista Bonino-Pannella, sono proprio le sensazioni di questo modello culturale. E anche dentro a questa chiave di lettura vi è anche il, diciamo, la marginalità che assume, la strumentalità che assume il concetto secondo cui una presenza radicale significhi un atteggiamento anticattolico. Tutt'altro, credo che valgono in questo senso le parole di Budget Bozzo negli anni 70, quando su Repubblica scriveva che i radicali sono sempre stati sul terreno della vita concreta, delle esigenze individuali, della vita, della salute, dei bisogni, delle marginalità, diciamo sul terreno che vive la parte dei credenti cattolici, e qui poi si apre il discorso richiamato anche da Emma, secondo il quale non c'è una alterità tra diciamo, azione politica radicale e intenzione cattolica. Saranno non i credenti molto spesso, ma sono i bigotti quelli che sembrano essere in ostilità con questo tipo di tesi. Ma ripeto, ritornando al concetto della non violenza, uno dei punti teorici che si determinano è anche sul piano generale se la non violenza stessa è una realisticamente una credibile prassi politica o di azione nei rapporti tra individui e stati. Si consideri appunto come anche il tema del terrorismo torna puntuale, sembra allontanare l'utilizzo della non violenza come arma credibile per fronteggiare la situazione. Ma qui si apre un altro tipo di discorso, cioè l'azione della mistificazione, il processo di mistificazione, di disinformazione, che molto spesso è anche uno dei presupposti entro cui si consuma la vocazione anche poi della violenza, cioè esistono proprio degli ambiti anche semantici in cui la violenza poi in realtà trova la sua finalizzazione, la sua possibilità di realizzazione solo se associata a una grande macchina di disinformazione permanente. In questo senso anche il collegamento con il Satyagraha, il lavoro di verità a cui Pannella lega la sua battaglia in questi giorni, in queste ore, è un altro elemento importante, proprio perché per Satyagraha è proprio la verità e l'essere la verità, appunto Sat come essere, Satya come verità, e appunto significa aggrapparsi fermamente a qualcosa, cioè in questo caso alla verità, mentre invece la violenza per esercitarsi alla menzogna, la sua sottile ma determinante forma per realizzare il proprio disegno. Ci possono essere anche riferimenti storici in questo senso, se si pensa per esempio a quello che è stata la tragedia del nazismo, si può pensare che non ci sarebbe stato il volto delle divisioni corazzate di Himmler senza appunto il disegno anche accompagnato alla mistificazione di Goebbels, cioè accompagnata appunto alla forma di imposizione di una finta verità senza le quali falliscono e poi si riducono a fallire anche le stesse gestualità violente. E questo è il senso della cultura non violenta e, se si vuole, anche il segno culturale con cui questa candidatura della Bonino è stata improvvisamente vissuta da moltissimi, anche di parti politiche diverse, come un vero segno di mutamento, cioè il mutamento non solo come speranza ma come possibilità concreta di ancorare alla legge, al diritto, il concetto della trasparenza, non più mere espressioni verbali, ma sostanziali possibilità di inserire quello che abbiamo definito la politica per cambiare, e cioè un modello culturale che da 60 anni con coerenza i radicali hanno portato avanti. Senti, visto che appunto l'intreccio poi il caso diciamo ha portato a far incrociare questo incontro previsto da tempo e legato al volume di Quaderni Radicali con il dibattito sulle regionali, come si tengono? Cioè la riflessione teorica che facevi su cui i radicali riflettono da 60 anni sulla non violenza e sulla politica per cambiare, come si tiene con una competizione come quella delle elezioni regionali? Insomma, se la Bonino diventa presidente della regione dovrà occuparsi di cliniche, di sanità, di rifiuti, di centrali nucleari. Questo che cosa ha a che fare, diciamo, con la non violenza? Ha a che fare in modo determinante. Prima sottolineavo, per esempio, che una cultura non violenta presuppone legge e diritto come condizione essenziale per produrre un cambiamento sostanziale nelle cose, ed è evidente che una soggettività politica che ha fatto della coerenza della legge e del diritto, delle regole e delle norme e contemporaneamente anche della lotta per cambiare le norme come viatico attraverso cui si può realizzare un processo di civiltà democratica, fa capire evidentemente che questo è il metodo anche per contrastare sotterranei interessi economici, diciamocelo francamente. Immaginiamo soltanto lo scenario economico che riguarda la sanità, che occupa in quasi tutte le regioni il 70% della spesa complessiva della regione stessa, molto spesso essendo ben lontana dal diritto alla salute, ai bisogni. Ecco, il diritto alla salute costituzionalmente sancito in Italia ha preso la forma di obbligo alla salute, ma non rispetto alla domanda del cittadino, rispetto all'impianto strutturale sul quale la tenia partitocratica ha potuto insediare le proprie succolente forme di recupero di denaro pubblico. In questo senso il concetto di legge e diritto, di legalità, ma non teorica ma concreta, che i radicali portano avanti, sono la garanzia massima per poter, diciamo, congiungere la domanda di salute con un accanimento anche di denaro pubblico, che molto spesso viene fatto dai residui, o meglio da quella partitocrazia senza partiti che è nella nostra agenda. Questo cambia anche un po' il modo di affrontare le questioni. In fondo, se si guarda bene, i radicali sono idonei a portare cultura di governo un po' in tutte le questioni. In queste ore si discute la mozione sulla giustizia che ha visto i radicali protagonisti di un intervento riformatore in senso generale e anche di lotta politica non violenta sulle conseguenze drammatiche, le carceri, la loro esplosione, la drammatica condizione in cui vivono. Questo esempio può essere riportato in molti altri aspetti, il territorio, la cultura dell'ambiente, la filosofia dell'ambiente non vissuta in chiave ricattatoria o fondamentalista, ma vissuta con la consapevolezza della sua centralità nel rapporto tra sviluppo e ambiente, che sono i modelli di un'azione liberale, laica e anche di cultura di governo del territorio, nel rispetto del territorio ma anche nell'attenzione al quadro di benessere generale. Insomma, una pienezza di consapevolezza che credo non trova difficoltà nell'azione anche di gestione amministrativa. L'esempio che anche al Comitato è stato fatto dell'unico segmento di gestione amministrativa che si è realizzato nella storia radicale, che è quella dei 3 mesi di Marco Pannella, presidente della Municipalità di Ostia, testimoniano che questa cultura politica, che l'agire di questi anni, che l'azione politica portata avanti dai radicali è l'azione politica di un soggetto che ha la piena consapevolezza di cultura di governo e anche l'attenzione ai diritti individuali e al rapporto tra individui e istituzioni vissuti in chiave democratica e non in chiave di eterodiretta, di potere centrale, di strumentalizzazione del cittadino e anche interruzioni di questo circuito informativo che prima accennavo essere sempre di carattere disinformante e che però è un supporto essenziale a questa classe di potere. Se non c'è una forte cultura disinformativa, depistante, difficilmente questi qui si reggono, perché non hanno né capacità di rispondere alla domanda che viene dalla gente, né possibilità, quindi devono ricattare, devono sempre costruire culture emergenziali. In questo senso il legame è proprio su questo aspetto qui, è il modello culturale, l'azione politica che abbiamo sviluppato in questi anni, l'attenzione alla gestione concreta dei fatti. In fondo basterebbe vedere che ogni qualvolta la vicenda istituzionale italiana prende una forma drammatica, immediatamente sono i radicali che interagiscono immediatamente per ricondurre un senso di civiltà, di attenzione, di rispetto delle regole. Pensiamo all'azione non violenta di Pannella vissuta su molti piani, quella per esempio della nomina dei membri della Corte Costituzionale la cui mancanza di numero legale rendeva improbabile il proprio agire, non era un gusto così estemporaneo, è un'attenzione costante allo Stato di diritto e alla capacità di comprendere che lo Stato di diritto, la regola e la norma sono i presupposti essenziali per un'azione di progresso, di civiltà e di allargamento di quello che poi la più naturale vocazione di una cultura laico-socialista liberale, cioè l'allargamento del potere da pochi eletti alla generalità delle persone, senza però demagogie assemblearistiche, ma dentro una cultura in cui chi governa governa, chi è all'opposizione controlla, chi deve dare informazione lo fa in modo corretto affinché ci possa essere il cambiamento nel giudizio da dare sull'agire e sull'atteggiamento che i vari soggetti politici pongono. E in questo, secondo me, il punto di legame. Emma Bonino ha testimoniato di essere, come soggetto diciamo di governo europeo, come commissaria, anche come ministro del commercio con l'estero, dei rapporti col Parlamento europeo, di essere una grande leader, un grande soggetto di governo delle situazioni. È la storia politica radicale che conforta questo e io sono convinto che l'esempio del Lazio può avere proprio un valore profondo nella crisi istituzionale che vive il Paese. Se Emma Bonino diventa presidente della Regione Lazio, gli effetti riguarderanno la Regione Lazio e in termini evocativi l'intero quadro nazionale, cioè innesteremo una via democratica al superamento di una crisi politico-istituzionale che può avere anche risvolti drammatici, perché le elite dominanti in campo non solo non hanno in testa nulla, ma sono anche esposte al rischio di giocare partite anche piuttosto subdole pur di mantenere il potere. All'Eliseo sabato 16 gennaio insieme alla Bonino ci sono Massimo Fagioli e Marco Pannella. Questi due personaggi e la loro interazione, volevo chiederti qualcosa per chiudere questa intervista proprio su questo. Cioè, Fagioli fa la sua analisi collettiva da diversi lustri, Pannella fa politica radicale da diversi lustri. Perché secondo te si sono incontrati adesso? Potevano incontrarsi in fondo anche 30 anni fa. Dunque, interessante in questo senso proprio quello che Fagioli dice nella conversazione fatta per Quaderni Radicali, che poi prepara il terreno a questo. Innanzitutto è estremamente significativo questo riconoscimento che Fagioli fa a Pannella proprio dal suo punto di vista di scientifico, dal punto di vista del portatore della teoria della realtà umana, riconoscimento a Pannella di essere il punto simbolico fondamentale. La sua leadership politica non nasce dalla gestione del potere, nasce dalla capacità di aver vissuto per 60 anni una coerente azione politica che aveva appunto nel mantenimento, nella coerenza di certi presupposti di analisi e di comportamento e quindi nell'azione politica la condizione per poter assumere un ruolo di guida rispetto a una certa azione. Si incontrano adesso perché probabilmente c'è anche un punto di maturazione psicologica anche da parte di entrambi. Fagioli lo dice con molta franchezza dopo l'esperienza vissuta con Bertinotti sul piano del tentativo da parte dell'ex leader di Rifondazione Comunista, nonché presidente della Camera dei Deputati, in una certa stagione, di per esempio portare fuori dal comunismo le forze post-comuniste attraverso l'azione non violenta. E dov'è che c'è stato poi il fermarsi di questa azione? E che comunque la cultura della violenza, cioè della violenza legittima per la conquista del potere, rimane un carattere strutturale in cui una certa sinistra post-comunista conserva il tratto di non comprensione della forza importante e significativa che l'azione politica radicale ha invece saputo con coerenza mantenere. Credo che però un altro punto di collegamento significativo vada ricercato in una parte che riguarda un po' anche il modo di essere del lavoro di Fagioli. Fagioli a un certo punto dice il suo lavoro di psicanalista lo porta ad andare in conflitto con la psicanalisi ufficiale e qui credo che nel momento in cui Fagioli evoca la sua teoria della nascita, cerca anche e trova lungo la strada il percorso della coerenza dell'azione politica di Pannella proprio su un aspetto, quando, non so, l'abbiamo citato molte volte, ma credo che sia, come diceva Pasolini, un vero e proprio manifesto di cultura politica non violenta, la famosa prefazione al libro di Andrea Varcarenghi, Andegrano a pugno chiuso, che Pannella scrisse nel 74, che resta uno dei testi, diciamo, fondamentali per un leader politico che ha avuto nell'espressione verbale la sua maggiore capacità di espressione, appunto. Noi sosteniamo, diceva Pannella, noi radicali sosteniamo che non esistono dei perversi ma dei diversi, nelle famiglie, nelle scuole, nelle fabbriche o negli uffici, persino i torturatori sono anch'essi in primo luogo e generalmente vittime, tranne che per certi psicanalisti. Uccidere il padre non è la soluzione, non aiuta a superare l'istituzione, la famiglia, o non basta o non è comunque necessario. Ecco, questo elemento porta non l'antagonismo ma l'elemento di allontanamento di Fagioli dalla cultura marxista freudiana al collegamento con l'azione non violenta radicale. Certo, restano punti di differenza, però sul piano della sensibilità umana l'incontro nasce proprio su questo, quando appunto Fagioli risponde, dice: aggiungerei a questa splendida narrazione il riferimento al malato, mi riferisco a quello che sostengo da tempo, si tratta di avere di fronte il lato di Melo di Polli, un soggetto che esprime anche un suo disagio sociale, e questo manifesta un fenomeno che va affrontato anche politicamente, ma se ci troviamo di fronte al delitto efferato allora deve intervenire anche la cura nei confronti del malato, cioè c'è un'interpretazione etico-filosofica che coincide, che trova un suo punto di maturazione e che adesso si esprime sia sul terreno teorico e adesso nell'immediatezza con l'impegno a sostenere la candidatura della Bonino, poiché tutto il lavoro politico di molti anni di analisi collettiva di Fagioli sembra trovare uno sbocco importante, anche simbolicamente rappresentato da una parte attraverso Marco Pannella che resta il leader fondativo di questa azione politica radicale e attraverso Emma Bonino che è stata un po' anche il soggetto e il leader operativo più intensamente presente nel quadro della gestione istituzionale. L'appuntamento è molto significativo, coincide con una diciamo occasione particolare, la partenza stessa della campagna elettorale per Roma, alla quale, diciamolo francamente, noi radicali siamo già impegnati perché si attende ad horas le risposte del PD che sembrano essere intenzionate a fare della Bonino il candidato presidente, ma la Bonino è già candidata, è già nel momento politico romano e laziale un soggetto che esprime una cultura politica, una cultura del cambiamento e il riflesso su tutto il quadro nazionale è anche piuttosto evidente, certo. Vedremo cosa sarà anche l'informazione, quale sarà il rispetto delle regole. A giudicare da questi primi passaggi se ne avverte poco a livello almeno televisivo. Queste ore in cui c'è la candidatura di Bonino si sente qualche intervista in più ad Emma Bonino. Vedremo quale sarà il prosieguo della campagna elettorale. Sicuramente un appuntamento nato dentro l'occasionale intenzione di fare un numero sulla non violenza con tutti gli interventi storici radicali è divenuta anche un'occasione per il lancio di una campagna elettorale, poiché i punti di congiunzione sono appunto quelli di realizzare una politica per cambiare di cui si sente fortemente il bisogno e che deve essere una politica non pseudo rivoluzionista ma una politica di cambiamento di regole, di metodo, e credo che in questo i radicali sono stati il momento più significativo di 60 anni di storia. I pochi mutamenti che ci sono avuti in questo paese che non siano di carattere negativo sono comunque riconducibili, non ce ne voglia qualche commentatore dell'avvenire, legati proprio alla cultura maggioritaria dei radicali, cioè alla cultura di interpretare un sentimento diffuso nella gente, molto spesso reso impossibile nella loro dinamica di collegamento, perché nella coscienza ultima del cittadino resta questo piccolo miracolo, un paese devastato da una classe dirigente incapace, come usa spesso Pannella dire, capace di tutto e buona a nulla, esiste un sentimento di fondo che ancora oggi ci fa guardare con speranza all'ipotesi di cambiamento in chiave di democrazia e di civiltà. E allora l'incontro si chiama Il potere della non violenza, che è anche il titolo del quaderno radicale dedicato a questi temi. Massimo Fagioli, Marco Pannella, Emma Bonino, Giuseppe Rippa, Ilaria Bonaccorsi e Matteo Fago, l'incontro organizzato da Quaderni Radicali e dell'Asino d'Oro Edizioni. Grazie a Giuseppe Rippa. Grazie a te.